Capitolo 8. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al 10° mese. Nel 10° mese, il 1° giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca. E la colomba tornò da lui verso sera. Ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'olivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il 1° mese, il 1° giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Dio parlò allora a Noè dicendo: «Esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa». Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave. E il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai».